America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Chrysler a metà del guado, anzi in anticipo sui tempi, Chrysler Fiat naturalmente, in anticipo sui tempi con una sfida centrale da qui alla fine dell'anno per il sorprendente marchionne, come me lo definisce Rebecca Lindler, un'analista finanziaria, un'analista del settore auto severissima in genere, e questa sfida è la sfida di una staffetta fra la ristrutturazione operativa e di immagine che ha occupato buona parte del periodo 2009-2010 con la nuova fase, e cioè con la ristrutturazione finanziaria, con lo sbarco in borsa, due fasi che si consumeranno a cavallo del 2011-2012, devo dire con una tempistica molto precisa, quasi da manuale militare, come del resto è stata tutta la campagna Marchionne a Detroit. It is a story of a city seeking new horizons in a resolute contest with great challenge. That city is Detroit. Avete sentito questa voce, una voce degli anni 60, quando già si presentava Detroit come una città in difficoltà, ma una città che non mollava mai, una città che cercava la nuova frontiera, che cercava la nuova sfida. Ecco, la nuova sfida e la nuova frontiera oggi appartengono a Marchionne, appartengono alla Fiat. Ho fatto una chiacchierata con Jim Dorsey e con Rebecca Lindland, analisti del gruppo IHS, che mi hanno dato un po' un quadro della situazione. Under automotive or IHS automotive, we have probably 100 analysts spread across the globe. We also have folks in New York, Detroit, and here who cover the industry. We have a large group in London. Ecco, Dorsey dà la credibilità del suo gruppo, dice che c'è una squadra di un centinaio di analisti che seguono il settore auto e dunque quello che loro esprimono non lo esprimono casualmente. La Lindland, con cui ho parlato separatamente, mi dice Sergio non finisce di sorprendere, Sergio naturalmente Sergio Marchionne, perché quando abbiamo avuto i programmi del 2009, dice, ero molto pessimista, devo ammettere però che i risultati ci sono stati. Marchionne sta portando a casa obiettivi anche prima del tempo. Adesso, dice ancora la Lindland, dovrà navigare le acque finanziarie, ci sarà molta attenzione, ma mi sembra che dopo l'operazione di oggi il percorso sia già ben definito. That's who we are. That's our story. Now it's probably not the one you've been reading in papers. The one being written by folks who've never even been here. Don't know what we're capable of, because when it comes to luxury, it's as much about where it's from as who it's for. Now we're from America, but this isn't New York City, or the Windy City, or Sin City, and we're certainly no one's Emerald City. Ecco, si trattava di Eminem. Devo dire, questa pubblicità lanciata durante la Super Bowl è stata una delle svolte chiave, uno degli ingredienti in questa marcia militare di Marchionne, quella appunto sul profilo del consumatore dell'immagine, che ha contribuito al rilancio, al rafforzamento del rapporto con i consumatori. Dove siamo oggi? Siamo al secondo obiettivo tecnico raggiunto da Fiat Chrysler, e cioè l'obiettivo di portare il capitale Fiat nel gruppo americano al 30%, dal 25%. Sono obiettivi intermedi importanti perché sono propedeutici ai tre grandi obiettivi, alle tre grandi scadenze finanziarie che si succederanno, e a questo coloro che seguono i destini della FIA dovranno prestare molta attenzione. Tre obiettivi, dicevo, che si succederanno secondo questo ordine e che domineranno il lavoro Chrysler da qui alla fine del 2011. Allora, il primo obiettivo è ottenere credito dalle banche. Marchionne si è lamentato spesso. L'indebitamento della Chrysler nei confronti del governo americano e in parte del governo canadese, circa 5 miliardi di dollari, è penalizzante perché sono stati applicati dei tassi altissimi con cui il governo americano naturalmente guadagna parecchi soldi, ma mette in difficoltà la Chrysler. La Chrysler ha avuto alla fine dell'anno, l'anno scorso, un utile operativo di circa 1 miliardo di dollari, ebbene quest'utile è stato spazzato via proprio dal servizio sul debito. Perché è importante questo capitolo finanziario? Perché fino a quando la Chrysler non avrà rimborsato il governo americano di questi 5 miliardi di dollari, governo americano, canadese e altre autorità canadesi, adesso riassumo per semplicità, ma fino a quando questi 5 miliardi non saranno stati rimborsati completamente, non potrà scattare l'altro meccanismo, e cioè quello che consentirà alla Fiat di acquistare il 16% del pacchetto rimanente per portare a termine l'intera operazione ed arrivare a una maggioranza del 51%. Dal punto di vista industriale italiano, vorrei sottolinearlo con enfasi, si tratterà di una svolta storica non secondaria. E dunque, in questo momento Marchionne sta già negoziando con le banche per poter ottenere denaro in prestito, rimborsare il governo americano e dunque procedere verso gli altri obiettivi. E quello più importante naturalmente sarà quello di andare in borsa. A quel punto, devo dire, si sarà così completata, come dicevo prima, un'operazione molto importante, anche con dei risvolti politici, perché in questi tempi io credo che non si debba ignorare l'esigenza del governo americano, l'esigenza di Barack Obama, perché c'è implicito, secondo me, nella chiusura di questa operazione, nel ritorno in borsa, nell'esorcizzare il fantasma del fallimento, l'insulto di Steve Rattner, uno dei grandi esperti del settore che lavorò per l'amministrazione Obama, secondo cui la Chrysler valeva appena un dollaro ed era votata al fallimento. Ecco, in questo esorcizzare c'è un do ut des proprio con il governo americano, anzi con Barack Obama, che si è esposto in prima persona, ha seguito passo passo gli sviluppi di Chrysler, e nel 2012 saremmo entrati in pieno anno elettorale e Obama a quel punto, con il successo di un collocamento in borsa, potrà dimostrare di aver avuto ragione quando si è fidato del piano Marchionne, di aver avuto ragione quando ha continuato a visitare gli impianti della Chrysler, di aver avuto ragione quando ha messo i soldi del governo americano per ottenerne un ritorno importante. Perché? Beh, perché la valutazione netta di capitale, secondo JP Morgan, della Chrysler potrebbe già superare adesso gli 8 miliardi di dollari. E quindi per il governo americano ci sarà un incasso circa di 1 miliardo di dollari, quindi un'operazione che si chiude a profitto, ma per la Fiat si tratterà di incassare anche 4 miliardi di dollari. E devo dire, senza aver mai messo una lira, e questa, se davvero andrà in porto in questo modo, resterà una delle imprese leggendarie di Sergio, come lo chiamano da queste parti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. In attesa di pubblicare il suo quinto album Muscle Car Chronicles, che uscirà il prossimo 3 maggio, il rapper di New Orleans Currency ha annunciato l'uscita di un EP intitolato Cover Coupe, che sarà disponibile, pensate, gratuitamente su internet fra pochissimo, a partire dal 20 aprile. Dunque ascoltiamo The Currency, Famous. In the classic, rosé in the glasses, get the weed out the plastic, spitter in the masterpiece, radioactive. I don't kiki with no rappers, they be hustling backwards like the jeans on Chris Cross. Who you Mac Daddy or Daddy Mackin? Pin lyrics on back of these napkins, zoned out in the first class cabin with noise cancellation headphones. Two heads brownies for breakfast this morning, staring down at the ocean and sky, scribbling fly on the streetcar named Desire, straddle the fence, you only get caught in the vibe. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.